La versione di Oscar Giannino. This is the end. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, buon venerdì 12 di giugno, 16:31 primi 57 secondi qui da in diretta di Studio Radio di Milano. Oscar Giannino vi saluta, vi ringrazia, vi ricorda l'indirizzo, la versione di Oscar, @radio24.it. E per telefonare l'800 24 0024, per gli sms 349 238 6666. Non so quanti telefoneranno oggi, perché questa è una puntata concepita per tentare di capire in che cosa consistano i punti fondamentali dei nuovi decreti attuativi del Jobs Act, cioè la riforma del mercato del lavoro, varati ieri dal Consiglio dei Ministri. Sapete che dopo i primi che nel frattempo sono stati approvati definitivamente, come la legge delega, sono decreti delegati, decreti legislativi, quindi c'è il parere parlamentare e così via, ce n'erano altri di cui eravamo in attesa. A dire la verità, dal mio punto di vista, i decreti anche più importanti, perché io ho sempre pensato che la riforma del mercato del lavoro, di cui per mesi abbiamo parlato, sull'articolo 18, il nuovo contratto a tutele crescenti, e adesso sbandieriamo ogni dato settimanalmente o mensilmente da Istat, dalla comunicazione obbligatoria del lavoro, dall'osservatorio precariato sull'INPS, da tutti questi troppi rilevatori pubblici. Il governo dovrebbe unificare le rilevazioni del mercato del lavoro, come in tutti i paesi avanzati degni di questo nome, ma nella realtà noi abbiamo dedicato pochissima attenzione alle politiche attive del lavoro, perché fin da quando è nata la riforma del mercato del lavoro si è detto che doveva nascere una nuova agenzia nazionale per prendere il posto della somma degli uffici provinciali del lavoro, che in Italia servono solo a dare lavoro a chi ci lavora praticamente, perché intermediano una quota bassissima tra domanda e offerta di occupazione. E appunto ieri, tra i nuovi decreti approvati in prima lettura, ce n'è uno che riguarda questo, ce n'è un altro che riguarda la riforma dei servizi ispettivi sul lavoro, perché noi usciamo da lunghi decenni in cui c'erano servizi ispettivi sul lavoro frazionati nella competenza, come è la logica della pubblica amministrazione italiana. Quindi c'erano quelli del Ministero del Lavoro, c'erano quelli dell'INPS, c'erano quelli dell'INAIL, e adesso dovrebbero tutti confluire a loro volta in un'altra agenzia nazionale che si chiama Ispettorato Nazionale del Lavoro, apparentemente una cosa positiva, se non che molti pensano invece che non sia poi così positiva, perché potrebbe essere meno efficace la centralizzazione. Allora, di questo tenteremo di capire meglio con il presidente di ADAPT, che è l'Associazione per gli Studi Internazionali Comparati sul Diritto del Lavoro, sulle relazioni industriali, e un pochino il punto di riferimento che noi utilizziamo, lo sentite spesso ai nostri microfoni, non solo nelle mie trasmissioni qua su Radio 24, il professor Michele Tiraboschi, per intenderci, e tantissimi giovani ricercatori che, a mio giudizio, sono quelli che in Italia tutti i giorni organizzano la migliore, quantitativamente e qualitativamente, congedi di iniziative proprio tutte sul mercato del lavoro, ed è con noi appunto per farci capire un po' meglio il presidente di ADAPT, Emanuele Massagli. Buon pomeriggio e grazie di essere con noi, Emanuele. Buon pomeriggio, grazie a voi dell'invito. Allora, io comincerei, rispetto ai temi che ti ho già citato, da un tema che sta a cuore a me, sta a cuore a voi, e che però purtroppo è uscito dal mirino, perché noi abbiamo sempre sottolineato, Emanuele, che questa Italia aveva bisogno di un contratto di apprendistato professionalizzante alla tedesca, che insomma significava riformare la scuola e il mercato del lavoro insieme, congiuntamente, perché l'esperienza tedesca dimostra che in un paese ad elevata manifattura come noi siamo quel modello funziona di più, perché con le imprese nella scuola e nella formazione e poi nell'apprendistato si arriva direttamente a definire meglio le skills, le abilità, le capacità per il mercato del lavoro rispetto al nostro sistema formativo la scuola superiore, il ciclo superiore e poi l'università, il terziario e il post terziario. Invece l'effetto del Job Act sembra in questi mesi quello di uccidere, per così dire, l'apprendistato precedente, perché è in diminuzione a doppia cifra nei dati ufficiali che abbiamo nei primi mesi di questi anni e soprattutto poi marzo e aprile, mentre crescono le tutele crescenti. Però proprio sull'apprendistato uno dei decreti approvati definitivamente getta le basi per passare a questo sistema duale. Ci puoi spiegare in realtà questa apparente contraddizione? Cioè, è vero quello che dicono i numeri, che Job Act fa male all'apprendistato precedente, oppure questo nuovo apprendistato duale di cui il decreto approvato definitivamente parla sarà una risposta efficace secondo te? Allora, i numeri dicono esattamente questo: il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti con l'esonero al contributivo sta fagocitando l'apprendistato. Anche i dati del Ministero del Lavoro, gli ultimi pubblicati, perché in effetti c'è quel caos a cui accennavi prima, tra dati Istat, dati del Ministero del Lavoro, comunque su questo c'è una coincidenza tra tutte le fonti, più o meno in misurano un meno 15% nel primo trimestre 2015 di contratti di apprendistato, per cui il dato è negativo ed è questo ormai abbastanza unanime. È vero che nel decreto sulle tipologie contrattuali il governo prova a intervenire sul contratto di apprendistato, anche se in realtà si tratta di una revisione volta giustamente a incrementare, a rendere più utilizzabili i veri contratti, le vere tipologie di contratti di apprendistato, che sono quelle che costruite sull'alternanza, quindi l'alternanza a scuola e l'alternanza in università. È vero anche però che il testo unico del 2011 viene rivisto sotto alcuni versi a ribasso, per esempio si accetta l'alternanza negli istituti tecnici e professionali, in particolare negli ultimi anni, ma scompare la possibilità di fare alternanza nei licei. Esatto, e questo è coerente anche con le modifiche accolte dal governo rispetto all'opposizione della CGIL nella riforma cosiddetta buona scuola, che in realtà hanno ristretto rispetto all'impostazione iniziale che era uscita dal Consiglio dei Ministri la quantità di ore, respingendola di nuovo verso la fine del ciclo di scuola superiore. Quindi c'è un dato coerente, purtroppo, dico io, sia nella buona scuola come sta cambiando, sia nel fatto che l'apprendistato nei licei non c'è. Sostanzialmente il messaggio è un po' questo: l'apprendistato è stato tolto dal disegno di legge della buona scuola ed è stato messo tutto nel Jobs Act. Contemporaneamente la buona scuola regola l'alternanza. Se si vedono le due normative insieme, si capisce che il governo scommette sull'alternanza intesa come stage lunghi, tirocini formativi curricolari lunghi. È chiaro che se un'impresa può attingere, può avere ragazzi in alternanza gratuitamente della stessa età di quelli che sarebbero apprendisti, tendenzialmente preferirà attivare percorsi di alternanza, ovvero percorsi di tirocinio e non percorsi di apprendistato. Questo è quello, è probabilmente... Che naturalmente però, voglio dire, è una radio delle imprese, però dico una cosa che probabilmente alle imprese non piace. Ovviamente aprire la strada agli stage e a tirocinio significa meno capacità di offerta di formazione vera rispetto all'apprendistato, o no? Beh sì, ecco. Sono due cose molto diverse in origine, perché il contratto apprendistato è un contratto di lavoro, il tirocinio è un'esperienza formativa e di orientamento. Che strano, per cui è completamente diverso. Non riesco a capire un governo di sinistra riformista che ragioni così, però vabbè, evidentemente è un limite mio. Ma c'è anche un altro fattore che noi come ADAPT abbiamo criticato, la normativa sull'apprendistato, che contiene quindi il superamento del testo unico dell'apprendistato, e questo lo dico perché indipendentemente dal valutare le misure singole giuste o sbagliate, io sottolineo che questa è la quinta modifica in 5 anni della normativa. Esatto. E anche forse la modifica più giusta del non si può andare avanti così. È chiaro che mette incertezza nel sistema, perché immagino l'imprenditore che per la quinta volta gli cambiano le regole di un contratto che è già poco utilizzato. Per cui è chiaro che se può preferirà lo stage, perché è certamente più semplice. Però ci ho detto, hanno messo la normativa sull'apprendistato nel decreto sulle tipologie contrattuali atipiche. E questo, secondo noi, quantomeno culturalmente non funziona molto, perché l'apprendistato non è una tipologia contrattuale atipica, è un vero e proprio strumento di placement. Esatto. Cioè il miglior contratto per l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro. Non è una tipologia come il lavoro intermittente o il lavoro accessorio, è un'altra cosa. non c'è dubbio. Un altro punto, questo riguarda i voucher. Poche settimane fa, due settimane fa, il presidente dell'INPS Boeri fece un attacco su questo tema dei voucher. Lui lo fece naturalmente per la pertinenza diretta previdenziale, dicendo: guardate che l'utilizzo di questi strumenti, l'utilizzo dei buoni lavori, dei buoni lavoro, che dovrebbe essere limitato a stagionalità, quindi a cose non continue, non particolarmente impegnative, consegna una nuova generazione di giovani o comunque di precari che non avranno la pensione. Il governo nei suoi decreti attuativi, in realtà, a differenza di quello che chiedevano gli oppositori a sinistra del PD, la CGIL e i sindacati, ha esteso l'utilizzo dei voucher, dei buoni lavori, li ha estesi fino a una quota di 7.000 euro l'anno, prima erano di 5.000 euro l'anno. Qual è la vostra valutazione da questo punto di vista? Il voucher è un ottimo strumento per contrastare i piccoli lavoretti che in Italia tradizionalmente sono lavoro nero. Non è un mercato del lavoro parallelo, anche perché il vincolo di 7.000 euro annui per persona evidentemente supera il problema che si possa creare un vero e proprio mercato del lavoro parallelo, perché indipendentemente dai datori di lavoro la persona non può avere più di 7.000 euro all'anno con lavoro accessorio. Per cui lo strumento è nato per far emergere una miriade di lavoretti, di attività, di servizi alla persona e lavoro per esempio in agricoltura, che solitamente nel nostro paese è nero. E i dati ci dicono che dal 2008 ad oggi questo risultato effettivamente ha ottenuto il risultato. Non sono i mini jobs alla tedesca, c'è un po' questa confusione. Sì. È un altro strumento che ha un'altra finalità. E anche questo può essere, per esempio, un'ottima occasione per far lavorare i giovani. Io ricordo a chi è in ascolto e chi magari fa la confusione sui mini jobs, stiamo parlando anche di tra i 4 e 5 euro l'ora in Germania. Qui un voucher è da 10 euro e di questi 7 euro e mezzo vanno al lavoratore e dovrebbero corrispondere appunto al compenso minimo di un'ora di prestazione. Allora, veniamo ad altri punti delicati da spiegare. Chi obietta che questa nuova agenzia ispettiva centralizzata, che assorbe gli ispettori del lavoro dell'INPS e dell'INAIL sui diversi aspetti della vigilanza sul mercato del lavoro, comporta dei rischi e dei pericoli piuttosto che delle opportunità? Ha torto o ha ragione secondo voi, Emanuele? Vedremo come si comporterà questo nuovo ispettorato. È possibile che succeda questo, perché nasce un soggetto pubblico estremamente potente, nel senso che avrà il potere di coordinare tutte le ispezioni sul lavoro, per cui dai suoi indirizzi dipenderà il controllo del mercato del lavoro italiano. Dipende quindi da come saranno esercitati questi poteri che effettivamente ci sono. Segnalo solo che ad ogni modo si tratta per ora della raccolta di persone che già lavoravano in altri enti sotto una nuova targa unica, però le persone e i modi di lavorare di per sé non cambiano. Ma era necessario immaginare un nuovo soggetto che istituzionalmente diventa autonomo, con un CDA, un collegio di revisori, eccetera eccetera? Cioè, che cos'è che spinge a questa creazione di questa nuova entità? Vabbè, l'intento sottostante può essere anche positivo, perché la dispersione, il non coordinamento delle ispezioni di tutti i generi, ma anche delle ispezioni del lavoro, quindi, è un problema per l'impresa. Cioè, ricevere in periodi diversi soggetti che fanno sostanzialmente la stessa verifica è evidentemente un costo per l'impresa. No, questo è, quindi dal punto di vista delle imprese, cioè il guadagno sulla compliance, cioè sul rispetto delle regole e sulle verifiche, è evidente. Mi chiedo per quale sia la filosofia pubblica sottostante, però giustamente dici tu, vediamo e non ci facciamo la testa con i pregiudizi. Subito dopo 60 secondi di informazioni sulle strade che partono adesso, invece andiamo a uno dei punti più delicati, quello dell'Agenzia Nazionale per le politiche attive, perché quella è la cosa di cui non si è parlato fino a quest'oggi, senza di cui non è che solo di decontribuzione vive il lavoro. Tra 60 secondi, strada. la versione di Oscar. Eccoci qui, tornati in diretta. Stiamo tentando di capire con un esperto vero che cosa c'è nei nuovi decreti attuativi del Jobs Act esaminati ieri dal Consiglio dei Ministri. Siamo arrivati a uno dei punti più delicati di cui si è parlato poco o niente fino a questo momento, e cioè la costituzione di questa nuova Agenzia Nazionale per le Politiche Attive, in cui dovranno anche qui confluire diversi soggetti che fino a questo momento si spartivano poco onorevolmente, visti i risultati assolutamente trascurabili, le competenze in materia, cioè l'ANPAL, l'ISFOL, Italia Lavoro, i servizi di politica del lavoro dell'INPS, dell'INAIL e così via. E al loro posto, dice un decreto che è approvato in prima lettura, quindi deve andare per adesso all'esame delle commissioni parlamentari, nasce questa nuova Agenzia Nazionale per le Politiche Attive. In che cosa possiamo immaginare, Emanuele Massagli, che questo nuovo network dovrebbe essere diverso e più efficiente rispetto ai vecchi uffici provinciali del lavoro? Questa è una domanda difficile, perché probabilmente questo è il decreto più debole di quelli conosciuti finora, purtroppo, dico, perché col Jobs Act, con i suoi limiti e i suoi pregi, comunque si va verso un modello in cui si accetta sempre di più la flessibilità nel mercato del lavoro. Il contratto a tempo indeterminato per le crescenti indubbiamente rende più facile il licenziamento. Quindi, se sempre di più si accetta che la persona non sia attaccata a un posto di lavoro ma faccia un percorso lavorativo, è chiaro che bisogna preoccuparsi di cosa ne è di quella persona quando non lavora, esatto, nei periodi di non lavoro. Esatto. E quindi centrale, tanto quanto le nuove norme sul licenziamento, dovrebbe essere la parte sulle politiche attive. In effetti, se andiamo verso la flex security, adesso in Italia è arrivata la flex, questa dovrebbe essere la parte security. Su questo devo dire che mancano nel decreto idee di rottura vero. Cioè, sostanzialmente si rimanda il problema a quello che deciderà questa ANPAL. Ah, per i fatti suoi. E il decreto sulle politiche attive, che dovrebbe avere come principale esigenza quella di efficientare le nostre politiche attive, che appunto, come ricordavi, in Italia intermediano, se va bene, il 3% degli occupati e delle assunzioni. Il problema di questo decreto era l'efficientamento della politica attiva, mentre più della metà degli articoli si dedicano a descrivere come lavorerà questa ANPAL. Mm. Questa ANPAL non è nient'altro, e nel decreto è abbastanza chiaro, non è nient'altro che l'aggregazione sotto questo nuovo soggetto di Italia Lavoro, di ISFOL, delle parti del Ministero dedicate all'intermediazione, ai centri per l'impiego, insomma. I cui addetti vengono totalmente assunti in questa nuova struttura. Vengono, sì, esatto, si trasferiscono sotto questa struttura, che saranno coordinati non più dalla loro amministrazione precedente, ma da un nuovo consiglio di amministrazione, e il consiglio di amministrazione è espressione del Ministero del Lavoro, della Politica e delle Regioni. Ma la domanda mia è questa: quando in Germania, negli anni quindi 2001-2005, il cuore del grande dibattito su come bisognava cambiare il welfare, la spesa pubblica e le tasse rispetto al grande malato europeo di allora, cioè la Germania, perché questo era la Germania con i disoccupati ai massimi dalla seconda guerra mondiale, si mise mano anche a una modifica esattamente delle politiche attive, facendo una scelta lì, in quel caso è molto decentrato, è tutto decentrato, quindi sono i lender che hanno la competenza, c'è una competenza di prima fila anche dei comuni, è un modello federale quello germanico, ma in uno dei pacchetti ARTS si cambiò la tipologia non solo perché si diminuì all'epoca troppo elevato sussidio per chi non aveva reddito, agganciandolo alla riformazione, al fatto che non potesse dire no a X proposte di lavoro nel tempo perché altrimenti lo perdeva, ma anche facendo una scelta tra i soggetti siti privati e pubblici che componevano la rete nazionale pubblica di intermediazione. Non c'è neanche questa scelta nel decreto delegato, cioè su come immaginare che l'amministrazione pubblica, per esempio, invece di occuparsi direttamente di questo, si occupi solo della vigilanza su un sistema in cui i grandi privati, che intermediano una quota molto più elevata del 3% della rete pubblica tra domanda e offerta del lavoro, vengano accreditati in questo sistema, dando un voucher al lavoratore che a quel punto è libero di scegliere dove, e a quel punto scegliendo chi è più bravo a intermediare domanda e offerta. Non c'è neanche questo tipo di criterio innovativo nel decreto, Emanuele? Allora, c'è un tentativo in questo senso, perché comunque si prevede uno strumento che si chiama assegno di ricollocazione, che è dovuto a tutti i disoccupati da almeno 4 mesi, che funziona sostanzialmente come il voucher di cui si diceva, per cui sarà il disoccupato a scegliere dove farsi assistere. E se vogliamo, sempre guardando il modello tedesco, c'è anche la buona idea di dare all'ANPAL il controllo non solo della politica attiva ma anche della politica passiva, per cui che l'ANPAL abbia un ruolo anche in ASPI e disoccupazione collettiva. E questo è una direzione indubbiamente giusta. Ciò detto, però, nonostante cambino casacca, gli operatori, i soggetti che amministreranno il sistema sono esattamente gli stessi. Il centro per l'impiego adesso viene chiamato allo stesso modo, diventa ufficio territoriale, denominato centro per l'impiego, questo dice il decreto. Il centro per l'impiego, governato da regioni e province, potrà sostanzialmente fare tutto quello che può fare anche un'agenzia del lavoro privata sul territorio. Perché tutto sommato non si è riusciti a cambiare drasticamente questo sistema? Perché questo sistema da noi è difeso dalla Costituzione. La Costituzione in effetti prevede che le politiche attive siano di competenza esclusiva delle regioni. E questo governo, c'è una revisione del titolo quinto in corso, però. Il problema è che questa revisione del titolo quinto è andata troppo lunga rispetto al Jobs Act. Quindi loro sono arrivati alla scrittura del decreto senza la riforma della Costituzione. E nasce quindi un po'. Li obbligati a fare un'agenzia che, per quanto sia guardia della Germania, eccetera, però in buona sostanza resta la somma di tutto quello che c'era prima senza cambiare. È un'agenzia che fa moral suasion. Ho capito, la moral suasion. Qui c'è bisogno di gente che sappia farlo quel mestiere, perché i disoccupati hanno bisogno di una buona intermediazione professionale, non burocratica, per compilare 2 moduli. Comunque, ci abbiamo provato a spiegarvi almeno alcune delle cose, che sono tante, complicate, ce ne sono tante altre. C'è l'estensione degli ammortizzatori alle imprese autrici in codipendenti, che prima erano solo nella cassa in deroga, e così via, però il tempo è finito. Io ringrazio Emanuele Mersagli e vi do appuntamento domani dalle 10 alle 12, i conti della belva, parliamo dell'IMU, di 55 miliardi di tasse in più negli ultimi 5 anni locali, parliamo di Uber e dei taxi domani dalle 10 alle 12, non perdetevelo, continuate con Radio 24.